Adriano Sofri, su Repubblica di lunedì scorso, si schiera con una certa onestà intellettuale dalla parte di chi nella crisi balcanica sostiene la guerra. Non ignora naturalmente i tanti argomenti in contrario, sa che la parola d'ordine del mai più la guerra è profondamente radicata nella coscienza della sinistra, che il ricordo degli orrori dell'ultimo conflitto mondiale, che si concluse con la bomba atomica, pervade ancora gran parte dell'opinione pubblica dei paesi democratici, determinando l'atteggiamento dei relativi governi che non a caso, anche quando intraprendono azioni armate, tendono a negare che di quella si tratti. Ma da quel conflitto, ricorda Sofri, non uscì soltanto quella parola d'ordine, ne uscì anche quella altrettanto importante del mai più Auschwitz, l'imperativo di non permettere per il futuro che sui diversi, sui dissidenti, sulle minoranze, si compissero nei singoli stati sovrani le atrocità che il nome di Auschwitz per tutti riassume. E anche se il diritto internazionale non ha mai posto le due problematiche sullo stesso piano, è evidente, almeno per il leader di lotta continua, che questo secondo imperativo ha perlomeno la stessa dignità del primo. Anzi, che si pone a un livello etico superiore, tanto è vero che in caso di conflitto tra i due è quello che bisogna scegliere. E per evitare altri Auschwitz, per porre fine fuori di metafora ai massacri del Kosovo, si può e si deve fare la guerra. Stiamo parlando di guerra vera, eh? Di quella che pone la vita dei nostri sullo stesso piano di quella degli avversari e non pretende di mettere fuori combattimento un nemico senza rischi per la pelle dei propri concittadini elettori. La differenza tra una guerra che si vuole giusta e una ingiusta, si legge in quell'articolo, non può esaurirsi nel movente né nel fine, ma sta altrettanto nel modo in cui viene condotta. Non è possibile, dice Sofri, sottovalutare il costo dello stereotipo della guerra asettica per chi la conduce, dei raid, dei bombardamenti aerei senza faccia e senza nome. E ancora, come ha scritto ferocemente Pierre Vidal Naquet, che confesso io personalmente non so chi sia, fare la guerra senza prendersi i propri rischi vuol dire aggravare il fossato tra il mondo dei ricchi e quello dei poveri. Non è combattere, è praticare una specie di tortura aerea. Ora, Sofri si trova nella difficile situazione di chi, essendo in condizione di prigionia, sostiene degli argomenti che non possono che rallegrare chi in prigionia lo detiene. In queste circostanze qualcuno potrebbe sentirsi tentato di fare con lui quello che si fa oggi, non so, con un Rugova in mano dei serbi, o si faceva ieri con un Moro prigioniero delle Brigate Rosse, e dichiarare le sue tesi irricevibili. Ma è una tentazione che, per quanto allettante, va rapidamente dismessa, e Sofri non si considera prigioniero dei suoi nemici, riesce a ritenere di essere vittima di un errore giudiziario, per il rispetto che gli è dovuto, dei suoi argomenti bisogna proprio tener conto, augurandoci di poter presto riprendere a polemizzare con lui da libero a liberi. Ed è difficile, perché Sofri con quell'articolo in pratica ha aperto la via alla campagna di promozione dell'attacco di terra. Campagna che da allora allinea su tutti i media con un certo fastidioso vigore, lo ha fatto mettendo in campo degli argomenti di ostensibile nobiltà, senza ricorrere lui, uomo di cultura e pensatore fuori dagli schemi, alle baggianate di quanti al limite invalicabile dell'attacco di terra subordinano soltanto la propria permanenza negli aurei pascoli governativi. Da questo punto di vista gli si può persino essere grati per aver messo in luce una buona volta i termini reali del problema. È abbastanza ovvio che dicano i vari Manconi e Cossutta, e per non menzionare la sinistra dei DS, i Verdi e i 180 e più parlamentari che hanno sottoscritto il solito appello in tal senso, che se uno pensa che quella scelta sia inevitabile e giusta, poi non può rifiutarsi di portarla fino in fondo per paura di farsi male. E la giustizia, ahimè, va perseguita anche a proprio rischio e pericolo, compreso il rischio e pericolo di perdere una poltrona governativa o l'appoggio di un'opinione pubblica sagacemente sorda a certe suggestioni. Tutto questo non toglie naturalmente che l'idea che una guerra fatta a piedi possa essere considerata in un certo senso più morale di quella che viene dal cielo, a me sembri straordinariamente futile. E non solo perché è difficile considerare morale la guerra in genere. È chiaro che un'invasione della Serbia da parte degli eserciti delle massime potenze industriali del pianeta non sarebbe uno di quei duelli cavallereschi ad armi pari che nei bei tempi che non furono mai si combattevano in difesa dei deboli e degli oppressi. E quanto al fatto che l'attacco di terra comporterebbe gravi sofferenze anche per chi la sferrasse, è vero, ma francamente non mi sembra che rivesta molta rilevanza. Che un gesto sia morale, se procura a chi lo compie danno, fastidio e patimenti, può crederlo soltanto chi non si è liberato dai cascami educativi della tradizione pretesca. Ma il problema di fondo naturalmente non è questo. Il problema di fondo resta in quella contrapposizione iniziale tra il mai più guerra e il mai più Auschwitz. Per Sofri e quanti la pensano come lui, la questione è tutto sommato è abbastanza semplice. Chi crede nella necessità di intervenire dovrà dibattere e interrogarsi sui mezzi con cui farlo. Ma invece, nelle mani dei pacifisti, di noi pacifisti, sinceri o abusivi, rischia di restare, scrive lui, solo il filo del no alla guerra, a rischio dell'omissione di soccorso. Il che è vero poi. Ciascuno deve correre sempre i rischi che le sue scelte comportano. Ma forse porre il problema in quei termini è meno esauriente di quanto sembri. Forse tra l'uno e l'altro mai più si può stabilire un rapporto più stretto di quanto credano gli zelatori dell'uso della forza. Per loro, lo abbiamo visto, la guerra si può fare in tanti modi e per tanti motivi, giusti o sbagliati. Il problema è solo quello di trovare il modo e il nemico giusto. Per noi no. Anche perché noi ci rendiamo conto che la guerra non la si fa mai soltanto con il nemico, che i suoi effetti investono la comunità degli aggressori con la stessa intensità di quella degli aggrediti, e non è necessario essere anarchici per capire che la guerra presenta un vantaggio enorme per chi comanda e uno svantaggio ancora maggiore per chi è comandato, quello di creare delle fortissime identità e di stringere le fila dei cittadini facendone dei sudditi, di respingere ai margini dubbiosi, di mettere in dubbio la legittimità dell'esistenza stessa dei diversi e giustificandone prima l'isolamento, quindi la rimozione e infine l'annichilimento. In altre parole, la guerra è il presupposto di qualsiasi Auschwitz. Perché, insomma, è vero che scendere in campo contro Hitler nel 39 era probabilmente inevitabile e forse sarebbe stato meglio decidersi prima, ma è anche vero che l'orrore dei campi di sterminio si è sviluppato proprio durante la guerra, si è sviluppato a pieno durante la guerra. Ed è vero che per tutta la durata del conflitto i tedeschi, che sono un popolo di alta cultura e di civiltà e che erano sottoposti a una dittatura così orribile, si sono stretti attorno all'unico simbolo di identità in cui si potevano riconoscere, cioè attorno al nazismo e ai suoi capi. Non erano, a quanto è lecito supporre, tutti i nazisti, e riconoscevano in gran parte la responsabilità del regime. Se fossero stati informati non avrebbero certo approvato di cuore quanto succedeva ad Auschwitz, ma non potevano proprio fare altrimenti. E tutt'oggi, il ricordo dei pochissimi che fecero altrimenti non è affatto onorato in quel paese. Anche in Italia, del resto, una resistenza poté nascere soltanto dopo che l'unità del paese in guerra fu rotta dal tradimento di chi la impersonava. E che in Jugoslavia oggi la guerra non faccia che aumentare i consensi del potere, di chi ha il potere, facilitando i suoi progetti, lo si può leggere su tutti i giornali. Io non so se sia possibile dire, come sostiene Sofri, che Pristina e Sarajevo sono la nuova Auschwitz, nel senso che ne fanno proprio e ne aggiornano il sinistro messaggio, ma sono sicuro che, come la seconda guerra mondiale nonostante tutto non ha potuto salvare dall'olocausto buona parte degli ebrei del centro Europa, e così questa nostra stupida e tragica aggressione alla Jugoslavia non salverà un solo kosovaro dal suo destino, anzi, affermando la non contestabilità delle ragioni del più forte e del più potente, cioè della NATO, porrà le premesse per la creazione di nuove Pristina, di nuove Sarajevo e di nuove Auschwitz, in buona sostanza. Alla causa della pace non dovrebbero essere necessari altri argomenti.